Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Tra le sperimentazioni in corso nell'area del CNR di Pisa, che come abbiamo spiegato qualche puntata fa si è trasformata in una sorta di piccola Smart City grazie all'applicazione di una vasta gamma di tecnologie smart progettate dagli stessi ricercatori del CNR, ebbene, tra tutte queste tecnologie ce n'è una di cui vogliamo parlare più approfonditamente questa sera con la dottoressa Irina Ferro, che è responsabile del laboratorio Wireless Network dell'Istituto Scienze e Tecnologie dell'Informazione del CNR, nonché coordinatrice di tutto il progetto Smart Area. Buonasera Ferro. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Dunque Ferro, la sperimentazione in oggetto riguarda il cosiddetto smart parking, cioè un sistema che tiene conto di quanti e quali posti auto sono liberi o occupati in tempo reale, in modo da poter, diciamo così, indirizzare il più rapidamente possibile i veicoli verso i parcheggi liberi. Voi state sperimentando l'uso delle telecamere come sensori, e questa, anche se non in termini assoluti, è già una prima novità, perché non è il modo standard con cui si fanno queste cose. No, normalmente gli stalli vengono monitorati con dei sensori di terra, che quindi richiedono comunque sia un'infrastruttura, e il costo di ogni sensore di terra si aggira sugli 80 euro, quindi più il costo dell'infrastruttura, insomma, per un parcheggio lei può immaginare banalmente a secondo di quanti stalli devono essere monitorati il prezzo sale. Quindi l'alternativa in questo caso è l'uso delle telecamere, perché sono preferibili? Queste telecamere che abbiamo sviluppato noi sono state sviluppate con criteri di basso costo e basso consumo energetico. Quando dico basso costo intendo che ogni telecamera va a costare sui 20-30 euro. E monitora più posti? Ogni telecamera copre circa 20 stalli, ecco, e anche di più, a secondo se ci sono. Noi abbiamo anche alberi, abbiamo situazioni anche piuttosto anomale, mentre un parcheggio normalmente in città è vuoto completamente. Certo, vuoto. Un grande parcheggio che è un grande spiazzo libero, lì c'è probabilmente, esatto, si possono, esatto, coprire anche molti più posti. Si può coprire fino a 25-26 stalli. E quindi intanto c'è questo fattore economico, senza contare il fatto che di per sé di telecamere sono già piene le città e magari potrebbero essere usate le immagini che queste ricavano. Però voi state facendo in realtà qualcosa di più. Cosa hanno di speciale? Hanno di speciale il fatto che l'intelligenza è proprio a bordo di queste telecamere, che continuiamo a chiamarle telecamere mentre in realtà sono dei computer dotati di intelligenza. E l'intelligenza è a bordo, sono, diciamo, continuiamo a chiamarle pure telecamere, dotate di tutto un apprendimento tramite algoritmi, di un apprendimento che gli fa riconoscere certi tipi di immagine, e quindi alla fine loro possono capire se uno stallo è pieno o vuoto perché sanno interpretare quello che vedono, quindi non viaggiano filmati. Quindi queste telecamere non inviano filmati? Assolutamente no, ma inviano un'informazione binaria, stallo pieno, stallo vuoto, perché tutta l'elaborazione dell'immagine fatta avviene a bordo e poi l'immagine viene distrutta. Ecco Ferro, questa capacità quindi di riconoscere una scena, di capire che cosa sta succedendo nel campo visivo e di mandare questo tipo di informazione, non l'immagine tal quale, mi pare che abbia diversi vantaggi. Intanto, da un lato c'è un tema di privacy che mi pare venga tutelata in questo caso, e dall'altro forse di minore richiesta di banda, no? Assolutamente, entrambi gli aspetti sono coperti, perché la privacy viene rispettata in quanto l'immagine, una volta elaborata a bordo, quindi nessuno uomo, diciamo, la vede a bordo della macchina, una volta che viene elaborata viene distrutta, anche per motivi di spazio, se no avremo bisogno di memorie, certo, infinite. E quindi viaggia soltanto l'informazione vuoto pieno. Ecco, viene conservato il filmato solo in circostanze particolari, no? Soltanto quando la telecamera viene usata anche per scopi di sicurezza, allora in quel caso lì, se la telecamera, l'intelligenza a bordo, riconosce un evento strano, anomalo, allora l'immagine in quel caso lì viene elaborata in modo diverso, viene mandato un segnale di avvertimento. D'accordo, ecco, dicevamo, quindi questo è un primo aspetto, quello quindi che tutela la privacy, quindi le uniche immagini che vengono eventualmente conservate sono quelle che riportano un fatto significativo. Un fatto significativo che verrà analizzato dalle persone preposte alla sicurezza, certo, dei vari ambienti. Ecco, e l'altro aspetto, dicevamo, è evidentemente quello della banda. La banda, assolutamente, perché queste telecamere lavorano a bassissima banda, perché in caso di puro e semplice monitoraggio di parcheggio viene mandata soltanto un'informazione binaria, nell'altro caso vengono mandati soltanto spezzoni di immagine relativi alla parte, diciamo, critica. Ecco, quindi parliamo nel funzionamento normale di qualche bit contro qualche megabit, probabilmente certamente di informazioni che vengono trasmesse. E siccome spesso le infrastrutture telematiche sono uno dei limiti allo sviluppo di queste soluzioni cosiddette smart, questo è decisamente un vantaggio molto importante. E da questo punto di vista mi chiedevo se voi state già lavorando, ecco, su applicazioni di queste telecamere che vanno al di là del monitoraggio dei parcheggi liberi o vuoti. Esattamente, stiamo iniziando proprio a lavorare su quello che vi ho detto prima, cioè sulla loro applicazione anche per la sicurezza dell'area. Questa è un'area estremamente grande con grossi problemi di sicurezza e eventi come scavalcare per esempio le reti di recinzione sulle parti, soprattutto le parti posteriori dei parcheggi, sono eventi che purtroppo sono accaduti e che adesso potranno essere riconosciuti da queste telecamere. Grazie, grazie Rina Ferro e buon lavoro. Grazie a voi.